Il gastronauta di Davide Paolini. Sine qua non semper, cari gastronauti, cari radioascoltatori. Ebbene, oggi faremo un bel giro, un bellissimo giro tra carnevali, fritti e dolci, dolci di carnevale o anche cibi, ricette di carnevale. Ebbene, credo che sia veramente un viaggio, un tour attraverso l'Italia, attraverso le tradizioni, le storie italiane, proprio per darvi così delle indicazioni per i prossimi giorni. Ebbene, iniziamo questo viaggio dalla Sardegna. Iniziamo dalla Sardegna e andiamo in provincia di Oristano, andiamo a Busacchi e abbiamo con noi Isabella Fadda, titolare del panificio Sussuc. Buongiorno Isabella Fadda, allora, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle, dunque, lei innanzitutto diciamo che ha un panificio e in tempo di carnevale nella vostra area, nel vostro territorio si fanno dei dolci molto particolari, ce ne vuol parlare? Sì, allora, si fanno le zippole, i fatti fritti, le ciambelle, insomma tanti dolci. Come sono le zippole? Allora, le zippole vengono fatte con la semola impastata con un po' di acqua dove si scioglie il lievito, giusto per sciogliere il lievito. Poi vengono impastate con il latte, il liquore, arancio, succo d'arancia. Ecco, queste si fanno proprio, cioè diciamo che è il dolce caratteristico appunto del vostro territorio, sì, per carnevale. Sì, nella nostra zona, sì. C'è anche qualche carnevale particolare, c'è qualche festa particolare nel vostro territorio? Nella nostra zona, sì. Lo fanno a Santo Lussurgiu, fanno un bellissimo carnevale. E poi vicino a Oristano, a parte vabbè Oristano c'è la Sartiglia che è famosissima, quindi... Ecco, la Sartiglia è una festa? Sì, sì, sì. È una corsa a cavallo dove sì. Si corre per prendere la sella. Ah, e quindi avviene l'ultimo giorno di carnevale o avviene durante carnevale la Sartiglia? Allora, la fanno la domenica, la fa un gremio, adesso non so se San Giuseppe. Sì. E poi il martedì. Ho capito. Ecco, gremio. Ritorniamo alla zippola. Oltre alla zippola lei aveva nominato altri dolci, no? Sì, io ho nominato le ciambelle. Sì. Le ciambelle, vabbè, noi le facciamo con la farina 00, uova, strutto oppure margarina, limone grattugiato, arancia e un po' di liquore. Isabella, si trova ancora lo strutto dalle vostre parti, sì? Sì, sì, sì. Quindi da è, la, noi sì. È la cosa migliore per fare questi dolci, molto meglio dell'olio e della margarina, penso. Sì, senza dubbio, vengono più friabili, più... Bene, la ringrazio Isabella, grazie niente, di aver dato questa informazione che riguarda appunto il territorio oristanese con la Sartiglia come festa di carnevale che si tiene ad Oristano e questi dolci particolari e prima di tutto appunto la zippola oristanese. Bene, dalla Sardegna andiamo in Piemonte, andiamo a Ivrea dove c'è un famosissimo carnevale, il famoso carnevale di Ivrea, dove il cibo è molto molto importante, anche perché ci sono due momenti in questo carnevale. Allora il primo ce lo facciamo raccontare da Carlo Albertone, che è ex presidente della Fagiolata di Castellazzo, appunto del carnevale di Ivrea. Di che cosa si tratta? Cos'è questa fagiolata, Albertone? La fagiolata consiste nella distribuzione del piatto tipico della gastronomia ipolediese nei giorni di carnevale, che sono i fagioli grassi con le cotiche. Ah, quindi un piatto leggerino. È un piatto leggerino, sì. Senta, ma c'è un particolare fagiolo che... Sì, c'è il fagiolo che viene usato normalmente per fare questo piatto, è un fagiolo, si chiama tipo saluggia, viene prodotto da noi, dalla zona di Santià a Chivasso. È un fagiolo resistente alla cottura, perché diversamente nei pentoloni che abbiamo noi, per esempio, che sono 90 di diametro per 90 di altezza, contengono 600 kg di generi alimentari, un fagiolo diverso, tipo il borlotto, diventerebbe poltiglia. Ecco, Alberton, come mai questo piatto è diventato un po' il piatto di carnevale? C'è qualche tradizione, qualche storia dietro questo piatto? Sì, le fagiolate derivano dalle confraternite di Santo Spirito del Medioevo, che usavano distribuire in occasione delle più importanti feste religiose, Pentecoste, Corpus Domini, il cibo ai poveri. Allora erano ceci, cioè i confrari raccoglievano generi alimentari, ceci, segala, vino dalla popolazione, e in occasione di queste feste veniva distribuito il cibo ai poveri. Poi è passato tutto alle congregazioni di carità fondate da Amedeo di Savoia, e poi alle badie giovanili, che hanno trasferito questa tradizione nel carnevale. I ceci sono poi diventati fagioli. Ah, quindi c'è stata questa trasformazione. Da noi esistevano già nel Medioevo le confraternite di Santo Spirito e poi le badie giovanili, e si è tramandata questa tradizione. Noi abbiamo, come fagiolata benefica del Castellazzo, abbiamo voluto mantenere anche, diciamo, la tradizione benefica, nel senso che facciamo quello che facevano gli antichi poretiesi, ci andiamo in giro per la città a raccogliere soldi. Questa volta andiamo nelle case, nei negozi, nelle aziende. Bene. Bene, Alberton, rimanga con noi. Comunque abbiamo Walter Garetto. Perché Walter Garetto? Riguarda sempre Ivrea, riguarda sempre il carnevale di Ivrea, anzi il giorno dopo al carnevale di Ivrea, all'inizio della Quaresima, perché c'è questa bellissima tradizione in questa città piemontese, che c'è la fagiolata del Castellazzo durante il carnevale, ma appena inizia la Quaresima cosa succede, Walter Garetto? Appena inizia la Quaresima noi pensiamo bene di far mangiare alla gente un cibo di magro, perché finora hanno mangiato sempre roba molto grassa, il che non è che vada tanto bene, ecco. E allora noi cuciniamo il nostro merluzzo con le cipolle, e i quantitativi del merluzzo e delle cipolle sono, insomma, abbastanza. Cuciniamo infatti 950 kg di merluzzo Island B e con 950 kg di cipolle, ottenendo 3.000 razioni che distribuiremo sulla pubblica piazza il mercoledì delle ceneri, iniziando così l'austero periodo quaresimale tutti assieme. Senta Garetto, ma da dove arriva tutto questo merluzzo? Allora, ci appoggiamo ad un importatore, e appunto dicevo poc'anzi che ci sono diverse sigle per questo merluzzo, per la tipologia. Noi usiamo, ormai da tanti anni, per cui la cosa è ottimale, l'Island B. Cosa vuol dire l'Island B? È il pesce che viene pescato nell'Islanda. Il B cosa vuol dire? Vuol dire, si riferisce alla grammatura dei vari pezzi, che partono da 800 grammi e arrivano fino a 1200 grammi. Senta Garetto, ma c'è molto, diciamo, molto uso, utilizzo del merluzzo a Ivrea, indipendentemente da questa festa? Beh sì, insomma, non è che a parte appunto la nostra festa, che abbiamo questi quantitativi, di tutto rispetto, ma al mercato, qui si svolge un mercato il venerdì, che è un mercato molto importante per tutta la zona, e il merluzzo ce l'hanno tutti, le bancarelle e i mezzi con i quali vengono distribuiti i generi di alimento. Certo. Quindi una grande tradizione anche di baccalà, immagino, in zona, insomma. Sì, infatti quello che noi chiamiamo merluzzo, che poi è il nome proprio del pesce, sì, in effetti è il baccalà. Ah, ecco, abbiamo scoperto l'arcano, infatti immaginavo. Io ringrazio Carlo Albertone e Walter Garetto di averci raccontato cosa avverrà durante il carnevale di Ivrea e immediatamente il giorno dopo. Grazie a voi, e così invitiamo tutti ad andare a mangiare fagiolata di Castellazzo e sicuramente polenta e merluzzo il primo giorno di Quaresima. Il gastronauta. Siamo in viaggio nei carnevali italiani, ma soprattutto per scoprire cosa si mangia, quali sono i dolci caratteristici, perché carnevale è sicuramente una festa che è molto movimentata, è molto legata a cibi, tradizioni e soprattutto a dolci e devo dire che tra i dolci soprattutto fritti. Bene, siamo stati per ora in Sardegna, poi siamo andati in Piemonte ad Ivrea e ora andiamo a Fano in provincia di Pesaro, quindi andiamo nelle Marche perché anche Fano ha il suo bel carnevale e ora entriamo in un ristorante Il Bottigliere per farci raccontare da Raffaello Desseo cosa succede durante questo carnevale di Fano, diciamo nelle tavole. Buongiorno Desseo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, cosa c'è di caratteristico durante il periodo di questa festa di carnevale nella sua città? Diciamo che è un gran mangiare di castagnole e frappe. Ecco, le castagnole sono un dolce tipico di qui della zona del Pesarese e sono fatte sostanzialmente con due cotture diverse, pur essendo più o meno simili. È un dolce che somiglia un pochettino alla zeppola napoletana di San Giuseppe, però è molto più piccola, è tipo un bonbon, ed è praticamente presentato sia al forno, che la ricetta tipica fanese, e sia fritto, che la ricetta tipica pesarese. Quindi distinguiamo nell'arco di questi 10 chilometri due tipologie di cottura diversa. Questo significa appunto che l'Italia ha una ristorazione, ha una cucina dei comuni, non delle regioni. Sì, sostanzialmente direi proprio di sì. Noi difatti rappresentiamo sempre di più quella che è la tipica cucina, diciamo, fanese, che si richiama a quella della terra dei Tughi, quindi al comprensorio del Ducato di Urbino, ma che in realtà paese per paese nasconde delle sfumature molto considerevoli, sia nella finitura del piatto che nella sua presentazione. Ecco, lei ha nominato le castagnole, poi ha detto anche le frappe, che sono le bugie chiamate così da altre parti, oppure le chiacchiere. Sono delle chiacchiere un po' più grosse e anche qui si presentano o fritte o al forno. Ecco, quindi è una caratteristica, al forno vengono un po' più gonfiette, sono quasi dei rettangoli di una decina di centimetri per 5, quindi abbastanza grandi, tali da poter consentire nell'usanza della tradizione ai bambini che partivano per il carnevale di poter fare una merenda completa con questa frappa. Ecco. Senta, durante il carnevale, appunto durante magari il clou del carnevale di Fano, c'è anche qualche ricetta che i ristoranti offrono particolare, guardi, tipica del territorio? Noi proponiamo, credo di essere qui nella zona l'unico che ripropone una ricetta che ha delle origini storiche risalenti al periodo napoleonico, e che sono i vincis grassi, che è una lasagna tipica marchigiana che è preparata sia di carne che di pesce. Però la macerata la fanno loro, attenzione. Non so che la fanno loro, però noi tendiamo a riproporla perché nella zona del Metauro, che è una baia vicinissima a Fano, questa pesca di alici aveva bisogno di essere inserita in qualche piatto, per cui essendo nel periodo soprattutto delle due guerre mondiali dell'inizio del Novecento, impossibile creare delle situazioni gastronomiche di lusso anche per la domenica, si pescavano queste alici e si mettevano in questa lasagna, quindi il vincis grasso di carne che nel maceratese imperversa qui veniva sostituito con queste alici che venivano pulite e messe insieme alla lasagna a cuocere. Così come sempre nella stessa zona abbiamo i legumi, perché poi si comincia da subito dopo carnevale con il periodo delle ceneri, i legumi accoppiati ai frutti di mare, quindi alle cozze e alle vongole. Bene, rimanga con noi Desseo, ora facciamo un rapidissimo volo a Sauris, in provincia di Udine, che è un borgo famosissimo per l'affumicatura dei prosciutti, ma ultimamente anche per una birra affumicata di grandissimo interesse. E allora andiamo così, facciamo un'irruzione nell'albergo-ristorante Riglaus, da Paola Schneider. Buongiorno, signora Paola. Buongiorno a tutti. Allora, questo carnevale di Sauris è bello? Lei invita ad andarlo così a vivere oppure è meglio stare a casa? Eh beh, Esattamente, il carnevale di Sauris credo che sia un carnevale molto antico, per cui credo che sia proprio da vedere, ha qualcosa di magico, nel senso che è portato avanti dalle due figure principali che sono il Railer e il Keirer, cioè il Railer è una figura magica un po' demoniaca con il volto ricoperto di fuligine e il cui nome deriva da Röln, cioè i sonagli metallici, questi campanacci che mette alla vita e che agita in continuazione in modo da raccogliere la gente per avvertire insomma che si preparassero alla mascherata. E poi c'è il Keirer che invece è la figura con la scopa che passando pulisce, fa finta di pulire le strade, i pavimenti delle case e chiama a raduno sia a corteo sia le maschere belle che le maschere brutte, cioè le Schenken Assemble e le Scheane Assemble, in modo da cominciare a fare questo corteo di maschere. E tutte le maschere sono ovviamente rigorosamente coperte con dei fazzoletti colorati, con le maschere di legno, poi queste maschere si radunano tutte in piazza e comincia il corteo lungo il bosco con le lanterne, per cui ha veramente qualcosa di magico, la neve, il bosco, le lanterne, le maschere. E poi la tavola, arriviamo alla tavola. La tavola invece è una tavola povera, perché c'è poco da fare, la montagna era povera, per cui anche il mangiare era povero. Il dolce principale del carnevale sono i Vledlan, che sarebbero delle piccole frittelle con la menta di prato essiccata, oppure sempre la salvia di prato essiccata messa via d'estate, e poi fate queste piccole frittelline con questi sapori cotte nello strutto e poi tamponate bene in modo da assorbire il grasso. Questo era il dolce tipico proprio. Oltre al dolce, ovviamente, che era l'unico, c'è il periodo in cui si uccide proprio il maiale, il proprio febbraio, per cui c'erano tutti i piatti a base di carne di maiale fresca, e per cui il Dunkerle, che è un piatto tipico proprio della zona di Sauris, fatto con un misto di carni di maiale, prima ben sgrassate, poi cotte nel latte e da mangiarsi con una bella polenta fumante. Questo è il piatto tipico proprio invernale. Senta, signora Paola, qui siamo in un'area appunto con una lingua molto particolare, perché mi sembra che siamo in zona carinziana, se non erro. Sì, noi siamo una piccola isola loglotta, deriviamo proprio dalla Valle del Gail, che è in Austria. Siamo da 800 anni in Italia, per cui ci sentiamo italiani a tutto spiano, certo. Però in effetti parliamo ancora la nostra lingua, il nostro dialetto, che è il saurano e che deriva proprio dalla Valle del Gail. Bene, io la ringrazio, bellissima questa rappresentazione, lei mi ha convinto a venire a visitare il Carnevale di Sauris. Sono già stato a Sauris un paio di volte, ma magari durante il Carnevale non ci sono mai stato. Bene, continuiamo il nostro giro, saluto Raffaello Desseo, grazie Desseo, grazie a Paola Schneider. Ora andiamo in Puglia e andiamo a Putignano, dove esiste un carnevale di Putignano e dove sicuramente molti conoscono questo borgo pugliese per gli abiti da sposa, perché sicuramente credo che la concentrazione di abiti da sposa che esiste in questo borgo non esiste in nessun'altra parte del mondo. Buongiorno Roberto Bianco. Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori. Bianco, cominciamo. Ci racconti com'è questo carnevale di Putignano innanzitutto, poi arriveremo alla buffata. Ma è un carnevale che veramente ha 615 anni, diciamo, attestati dai documenti, no? Però noi diciamo c'è qualcosa che risale ancora più indietro, se pensiamo che iniziamo il 26 dicembre con una festa delle propaggini, no? Le propaggini sono uno dei metodi più antichi di trapiantare la vite, una festa del vino. E il vino veramente, qui stiamo parlando di gastronomia, no? È l'origine di questa grande festa con Dioniso, con questa pozione magica che era in grado, no, di far dimenticare un po' tutte le storie di oppressione con le quali l'uomo si è misurato nei secoli e si misura ancora oggi. Ecco, io vedo la festa del Carnevale come una grande festa del popolo contro le diverse forme di oppressione. E noi iniziamo con una bellissima festa del vino il 26 dicembre. Questa ve la siete persa, ma l'anno prossimo, diciamo, mettetela già nel vostro calendario. Il 26 dicembre si inizia con una festa popolare dedicata al vino e alla satira popolare, con i cittadini qualsiasi salgono su un palco e attaccano i potenti con versi in rima. Questa è veramente la logica del Carnevale, la lotta contro l'oppressione. Ecco, ma ok, diciamo, lei ci ha raccontato un po' il Carnevale, però mi risulta che c'è qualcosa di particolare davanti al campanile di Putignano. Ma certo, diciamo, l'alimentazione è proprio uno degli elementi costitutivi, no, delle feste di Carnevale in generale, e quindi anche a Putignano, che è un Carnevale molto tradizionale. Ricordiamo il Giovedì Grasso, proprio questa sera, una grandissima buffata di carne di maiale, proprio la carne per eccellenza che soddisfa lo stomaco e che in qualche maniera riequilibra un deficit alimentare che nei secoli passati era forte. Almeno a Carnevale l'eccesso alimentare era consentito, ma noi ci riconsentiamo ancora oggi, perché in questo caso il Martedì Grasso, il 24, quindi l'invito è per tutti quanti voi, diciamo, nella piazza antica della città, beh, c'è una simulazione di bruciatura del maiale, ma quello è il re Carnevale che viene, diciamo, bruciato, ma la sua morte è un fatto positivo, allontana il male e ci avvicina al bene. Ma in un'altra piazza della città che cosa avviene? L'ultima ora del Carnevale, no? Siamo alle porte della Quaresima, quindi l'ultima ora, ben 365 rintocchi di campana ci ricordano ognuno che si sta avvicinando la Quaresima. E nel frattempo che questo avviene, in un grandissimo pentolone c'è una pasta che ribolle con un sugo eccezionale, naturalmente di carne, no? Quello proprio calorico, e viene distribuito alla gente del posto. È la campana dei maccheroni. Il gastronauta. Riprendiamo il viaggio tra carnevali e tavole imbandite, tra fritti e dolci. Ecco, stavamo parlando del Carnevale di Putignano, questo borgo in provincia di Bari. E allora vorrei riprendere con Roberto Bianco. Eravamo arrivati a questa, diciamo, enorme abbuffata di pasta davanti al campanile, e ci stava raccontando del sugo che viene aggiunto ai maccheroni. Certo, diciamo, è un piatto ricco, è un piatto saporito, proprio perché siamo, no, agli sgoccioli della Quaresima, e si sa che quello poi diventa un momento, diciamo, di digiuni alimentari, e allora in questa grande piazza migliaia e migliaia di persone condividono questo momento, e alla mezzanotte precisa, noi siamo tradizionali, non facciamo sfilate in Quaresima, alla mezzanotte precisa, all'ultimo rintocco, si spengono le luci e una cenere viene sparsa, una cenere vera viene sparsa per tutta la piazza, e lì ognuno ritorna un po' a meditare su quelli che sono stati gli eccessi. Bene. È un Carnevale tradizionale che mette insieme molti elementi di sacro e di profano, come del resto molti, diciamo, carnevali contemporanei hanno in Italia. Bene, Roberto Bianco, io la ringrazio, presidente del Carnevale di Putignano, grazie di averci così raccontato in maniera appassionata la festa di cui lei è presidente. Bene, grazie. Ora andiamo a vedere anche in qualche ristorante italiano cosa succede, perché ci sono alcuni locali ovviamente che fanno dei menù particolari, specialmente del Martedì Grasso, e quindi andiamo a scoprirli un po'. Andiamo in Romagna, andiamo in provincia di Rimini, a Torriana, andiamo al Povero Diavolo. Abbiamo con noi Fausto Fratti, che è il patron. Bene, Fausto, avete un menù particolare, a quanto mi risulta, per il Martedì Grasso. Buongiorno, sì, anche noi abbiamo fatto un menù particolare per il Martedì Grasso, attinge soprattutto in particolare dalla tradizione, sia negli ingredienti che nella preparazione delle ricette. Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, vabbè, uno su tutti, direi il piatto più goloso, che più si avvicina alla tradizione carnevalesca, è una tagliatella, che è classica romagnola, tenuta abbastanza sottile, con una gratinatura al forno. Esattamente, si chiama tagliatella gratinata con luverie e salse al formaggio di fossa. La luveria sta per ingredienti particolari, tipo non so, una coppa di maiale, una salsiccia matta, dei fegatini di pollo e animelle. Fatto questo sughetto e cotta, sbollentata la tagliatella in acqua bollente, viene tutto poi passato a gratinare al forno e alla fine viene servito su uno specchio di salsa al formaggio di Forza. Questo è diciamo il primo. Poi ci sono i classici dolci del carnevale che non mancano mai, cioè le castagnole e i fiocchetti in versione quella arricchita, non quella tradizionalissima, nel senso che avranno un passaggio le castagnole ad esempio nella kermes, il fiocchetto profumato con l'anice e tutti questi fritti. Il fiocchetto sarebbe l'equivalente delle bugie o delle chiacchiere? Esatto, quindi si fa un impasto tipo con qualche uovo in meno rispetto, rosso in meno rispetto all'impasto della tagliatella, viene tagliato a rettangolini, stretto a mo' di stricchetto in mezzo e fritto in olio bollente. Quindi la frittura c'è, insomma, l'idea del... La frittura c'è anche da noi nelle versioni dolci. L'idea del grasso, insomma, del martedì grasso c'è sempre questo. Un altro piatto particolare è un'insalata di testina di vitello, ad esempio, però la nostra poi... La caratteristica che abbiamo voluto dare a questo menù è renderlo sì bello, grasso e opulento da una parte, però cercare di tenerlo sufficientemente leggero per accontentare anche i palati del giorno d'oggi, che hanno esigenze diverse a quelle certo. di 50 anni fa. Bene, grazie Fausto. Fausto Fratti, povero diavolo, questo menù particolare per martedì grasso. Ora andiamo, diciamo, nel posto per antonomasia del carnevale. Andiamo a Venezia. A Venezia è sicuramente il posto, diciamo, più conosciuto nel mondo, un carnevale straordinario, un carnevale che così ogni anno arriva sulle pagine di giornali di tutto il mondo. Poi la bellezza di questa città e diciamo di notte con il carnevale, qualcosa di fantastico, ma c'è una grande tradizione anche gastronomica. Allora noi andiamo a vedere principalmente questa. Andiamo dal presidente dei cuochi della Regione Veneto, da Graziano Manzatto. Buongiorno Manzatto. Buongiorno a lei. Allora, carnevale, diciamo che ogni fritto vale, lei cosa ne pensa? Ma direi che con l'atmosfera che c'è adesso, come proprio oggi, è fantastica, quindi con tutto questo pubblico è veramente una cosa fantastica. Ecco, diciamo che come posso dire, per antonomasia la ricetta, il piatto, diciamo il fritto, il dolce che viene riferito a questo carnevale è sicuramente la frittola. È così? Beh, oppure ce ne sono anche altri, ma la frittola è un po' quella che rappresenta il carnevale. Sì, difatti, diciamo, da tradizione, diciamo, proprio veneta, anche i nonni avevo sempre avuto proprio questo ricordo antichissimo, però proprio io ho conservato delle ricette fantastiche da mia suocera, che sembra di no, perché io volevo proprio portare alla luce alcune ricette che non ci sono più, che magari anche perché non c'è nessuna codificazione della frittella, e io vorrei cominciare a fare un nuovo documento proprio sulla frittella, proprio la tipica frittella veneziana. Ecco, ci vuol spiegare innanzitutto appunto ai nostri radioascoltatori, perché molti magari della Puglia, della Sicilia oppure anche di altre aree d'Italia non sanno, cioè frittola, sentono frittola, pensano al fritto, però diciamo che c'è anche, la parola è anche ambigua, e diciamo che questo che in Veneto frittola significa anche qualche cos'altro, però poi dopo ne parliamo di questo, ma volevo dire, ci spiega cos'è la frittola, ecco, ci dà la ricetta della frittola. Sì, diciamo, io vorrei proprio dare questa ricetta, diciamo, io l'ho conservata per anni, quindi anche perché se andiamo a vedere di testi, diciamo, di gastronomia ce n'è migliaia di ricette proprio con la frittella, però è questa che secondo me, io tra l'altro l'ho mangiata tanti anni, e quando arrivava il periodo di carnevale ero entusiasta proprio perché sapevo che mia suocera faceva queste frittelle particolari. Sono semplici, diciamo, qualsiasi ascoltatore può scriversi anche la ricetta. È una ricetta, tra l'altro, che non va in grammi, ma va proprio ancora a bicchieri, quindi è ancora più semplice per le signore di casa. Quindi diciamo una ricetta per 10 persone, sono 4 uova, zucchero cucchiaio numero 4, olio di semi cucchiaio, che una volta c'era l'olio di semi, adesso naturalmente c'è l'olio d'oliva, latte in bicchieri numero 2, farina 00 circa 500 grammi, uvetta passa grammi 150, una bustina di lievito Bertolini, vanillina bustina una, sale, un pizzico di sale, arancia buccia grattugiata e limone buccia grattugiata. E chi ha piacere, se non ci sono bambini, del rum. Bene, Manzato, frittola in Veneto, in dialetto veneto, significa anche l'organo femminile, se non erro, vero? Direi di sì, però... Qui c'è questo gioco di parole, insomma, c'è questo gioco di parole, insomma, carnevalesco, diciamo. Beh, direi proprio di sì, anche perché noi, non so, ricordo anche te, le suoi ascoltatori, che tra l'altro so che lei ha nutrito numero di ascoltatori, tra l'altro le faccio i complimenti, che lei è veramente una persona squisita, che io ho sempre ammirato. Grazie. Siamo qua a Venezia proprio per il campo del gusto, che proprio in questi giorni partiamo proprio con gli chef del Veneto, ci sono le elezioni importanti e quindi possiamo anche parlare della frittola, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori proprio a venire, perché ogni giorno ci sono 2-3 lezioni sulla cucina, quindi la tipicità veneta, diciamo. Ecco, non l'abbiamo finito, perché un altro dolce tipico di carnevale sono i galani anche. Esattamente, anche quelli sono, anche quello ci sono diverse ricette. Tra l'altro sono, diciamo, sempre personalizzate da ogni famiglia, anche in Veneto e particolarmente a Venezia. Quindi se vuole la ricetta io gliela posso dare, però è no, più no, cioè, dicevo semplicemente che i galani con le frittole sono dolci anche questi tipici. Volevo chiedere se c'è anche qualche cos'altro oltre i galani e le frittole. Ma no, ma le frittole si possono fare con diverse, certo, anche con semolino, quindi abbiamo diverse, però noi teniamo sempre la tradizione tipica nostra. Poi è il matrimonio perfetto, galani e frittelle, insomma. Quindi penso che qualsiasi persona che viene a Venezia vede nelle vetrine ci sono questi due prodotti di nicchia, che bene, conserviamo anche con calore e anche con significato, perché secondo me non dobbiamo perdere i grandi valori della cucina. Assolutamente, assolutamente. Se lei ritrova così delle ricette ancora più tradizionali di quelle che sta cercando, lo faccia pure, perché secondo me ci sarà un grandissimo ritorno. Grazie a Graziano Manzato, che ci ha raccontato appunto le frittole e il carnevale di Venezia. La ringrazio e a presto. Il gastronauta. Continua questo viaggio nei carnevali d'Italia. Quanti sono? Sono tantissimi, uno più interessante e più intrigante dell'altro. Abbiamo sentito, diciamo, questo splendido racconto che ha fatto Paola Snyder per il carnevale di Sauris, questo momento appunto oggi con la neve, il bosco e sicuramente questa passeggiata notturna, ma poi anche Putignano in Puglia, dove appunto si assiste alla buffata di pasta davanti al campanile, e poi ancora questa distinzione molto bella tra il mangiare di carnevale e poi subito il cominciare la quaresima con dei piatti di magro. Volevo anche ricordare questo particolare della frittola, mi sono dimenticato di chiedere a Graziano Manzato se fosse più o meno vera questa notizia che così ho recuperato sugli scritti, che la frittola era il dolce tradizionale della Repubblica Serenissima, quindi sì, veramente un punto storico importante da sottolineare. Bene, e ancora continuiamo a visitare l'Italia e andiamo a Cento in provincia di Ferrara, dove c'è un famosissimo carnevale, un carnevale che ultimamente addirittura è stato anche esportato, mi sembra, in Brasile, credo a Rio de Janeiro, ma ne chiediamo ora se questa notizia è vera oppure non lo è a Monica Vaccari, che è la titolare della pasticceria del Guercino. Buongiorno Vaccari. Buongiorno. È vera questa storia del vostro carnevale, che addirittura ha avuto successo in perfino in Brasile? Assolutamente sì, c'è il gemellaggio con Rio. Ah, quindi addirittura siete assurti a livello internazionale. Senta, ma cos'è che avviene durante il vostro carnevale? Poi parleremo anche di dolci, appunto, di cui lei sicuramente è una grande esperta. Mi spiega cos'è questo bellissimo carnevale? Cosa succede in Cento? Ci sono dei meravigliosi carri allegorici che hanno un gettito dove vengono lanciate caramelle, regali alla gente, poi c'è... sono bellissimi ospiti sul palco, famosi. Ecco, allora passiamo invece ai suoi dolci. Ecco, durante il carnevale Cento e la sua pasticceria fanno delle cose molto particolari? Direi di sì, facciamo le sfrappole, i tortelli con crema. Ecco, ci spiega cosa sono le sfrappole? Le sfrappole è un dolce di carnevale che viene fritto, e arrotolato e poi gustato, è buonissimo. Ma arrotolato dentro ci va marmellata oppure proprio semplice così? No, c'è semplice, c'è con, fatto a tortello, che da noi i tortellini sono mitici, per cui viene fatto questo dolce, fatto a tortello, ripieno con la crema oppure col cioccolato. Quindi è un tortello che magari la gente pensa di mangiare dentro ci sia carne o d'altro, no, formaggio, in realtà... No, si vede benissimo che è dolce perché viene zuccherato, con lo zucchero a velo. E poi qua lo conoscono tutti, insomma. Certo. Senta, ma durante l'anno continuate a fare questi dolci o li fate solo esclusivamente a Carnevale? Solo per Carnevale. Quindi diciamo che c'è un periodo ben preciso. E quando inizia a fare la Quaresima, il giorno della Quaresima c'è un dolce così, vengono sostituiti con altri dolci oppure si smette di produrre? No, noi li produciamo lo stesso perché c'è sempre qualcuno che... Qualche goloso? Che non guarda la Quaresima. Senta, al di là delle sfrappole e dei tortelli, la sua pasticceria ha un dolce, diciamo, caratteristico proprio? Ma direi che qui a Centola il tipico dolce è la torta di tagliatelle. Ah. Però noi facciamo una buonissima torta alla frutta, morbida. Ecco, com'è questa dolce di tagliatelle? C'è una base di pasta frolla e poi viene creato un impasto al suo interno che va infornato insieme alla pasta frolla e comprende mandorle, canditi, zucchero in granella. Poi non le dico altro, altrimenti dopo dovrei ucciderla. Beh, ho capito, perché sicuramente ci sono tante cose dentro, insomma. Quindi poi bisognerebbe chiamare un dietologo, forse. Esatto. Bene, io la ringrazio. Ringrazio Monica Vaccari della pasticceria del Guercino a Cento, in provincia di Ferrara. Bene, ora andiamo in un'altra pasticceria. Andiamo dall'Emilia, andiamo al confine tra l'Emilia Romagna e la Lombardia. Chissà se a Mantova si sentono lombardi. Buongiorno Oreste Pavesi. Buongiorno. Del forno Pavesi, appunto, di Mantova. Senta Pavesi, sì. Quali dolci voi, cioè a Mantova, quali sono i dolci tradizionali di Carnevale? Ma, noi facciamo le lattughe, che poi sarebbero le quelle che vengono chiamate bugie, chiacchiere, cose. Sa che ogni città praticamente c'ha un proprio nome. Sì, è verissimo. Chissà perché, sarebbe molto interessante, perché poi in fondo sono fatte tutte alla stessa maniera, no? Sì, poi l'impasto è sempre, adesso, più o meno uguale, ma va sempre su quella linea lì. Però cambiano i nomi. Cambiano i nomi e poi magari c'è qualcuno che le fa al forno, altri le friggono. Sì, beh, ma però la vera lattuga o chiacchiera o bugia, come si vuol dire, è fritta. È fritta, quindi sì. Cioè, perché Carnevale, l'idea della frittura è importante. Sì, insomma. È importantissima, perché è proprio da il Carnevale. Senta, ma a proposito di fritti, poi torniamo a Carnevale. Una curiosità, io sono un appassionato di bomboloni. Cioè, lei li fa i bomboloni? Sì, certo. Ah, ecco, benissimo. Li fa fritti o li fa al forno? No, fritti. Vuoti dentro? No, con la crema. Con la crema. Quindi... Poi a richiesta lo si può fare, o lo si può riempire con la marmellata, adesso anche con la Nutella, oppure vuoti. Dopo lì è una questione di cosa. Ma più che altro quello del bombolone vuoto, ci sarebbe la ciambellina. Ah, certo. Sarebbe proprio fatta a ciambella, la stessa pasta del bombolone, però fatta a ciambella, e quella è vuota. Io devo dire che sono ghiotto sia di ciambelle che di bomboloni. Quando li vedo non mi so trattenere. Sono anche veramente molto buoni. E qualche volta arrivo anche a due. Ma lei li fa tutti i giorni, no? Così prendo giù l'indirizzo, poi sicuramente faccio una capatina. Sì, quasi tutti i giorni. Più che altro sì, verso la fine settimana. Ma comunque, solo che il bombolone adesso ha perso un po' di interesse. I dietologi ce lo hanno ammazzato, lo hanno ammazzato purtroppo. Sì. Io faccio un appello allora, signori, tornate a mangiare i bomboloni, tornate, certo, insistete nelle pasticcerie che vengono riproposti i bomboloni. Beh, bomboloni come un tempo venivano mangiati nelle spiagge romagnole. Sì, lì fanno ancora, effettivamente. Sì, beh. Allora torniamo, Pavesi, torniamo ai dolci di Carnevale. Hai detto appunto bugie, frappe, sì, frappe o d'altro. Lei, oltre a questi, quali sono altri dolci? Dopo facciamo, si fanno le favette o castagnole, anche lì cambia il nome a seconda della zona. Certo, anche questo, ecco, è vero. Sono dei piccoli bomboloni, possiamo chiamarli, perché sono tondi, sono delle palline tonde, un po' grosse, morbide, ed è solo pasta, non hanno ripieno. Ah, quindi senza ripieno, appunto. Senta Pavesi, oltre a questi io volevo chiederle una cosa, perché siamo a Mantova e sicuramente a Mantova si mangia un'ottima sbrisolona. Qual è il segreto della sbrisolona? Il segreto della sbrisolona è farla come ricetta comanda, e praticamente sarebbe la farina di mais, farina bianca, lo zucchero, il burro e le mandorle. Quindi sono importantissime. Semplice, sembrerebbe semplice. No, è semplicissima, però occorre veramente fare gli ingredienti giusti, con i dosaggi giusti. E poi bisogna che sia croccante, bisogna spaccarla con un pugno, no? Sì, ma non è un croccante che poi una volta in bocca si scioglie, si deve sciogliere in bocca, cioè non deve essere dura proprio, deve essere dura così, di prima acchito così è dura, allora gli si dà due o tre pugni sopra, si formano tanti pezzetti e la si cosa. Noi ad esempio per ammorbidirla ancora di più ci mettiamo sopra un goccino di rum o un goccino di grappa nel proprio pezzetto a chi piace. Certo. E così si ammorbidisce e diventa anche molto buona. Bene, io la ringrazio Pavesi, lei mi ha fatto venire voglia ora di andare a cercare un bombolone, magari sarà un po' difficile perché a Milano è difficile trovare i bomboloni, purtroppo. Bene, cari amici, cari gastronauti, cari radioascoltatori, abbiamo fatto un giro tra i carnevali d'Italia, siamo partiti dal Friuli e siamo arrivati fino in fondo, fino alla Puglia e poi anche oltre, perché siamo andati in Sardegna, quindi siamo andati anche nelle isole. Insomma, l'Italia è un paese ricco di carnevali, uno più bello dell'altro, uno più affascinante dell'altro, ma così pure è ricca la gastronomia dei carnevali, come abbiamo visto, ci sono storie, tradizioni e saperi davvero molto importanti da poter conservare. Ebbene, finito questo viaggio, io vi auguro un buon carnevale, andate dove volete, andate appunto a Sauris, andate a Oristano, andate a Fano, a Putignano, andate a Venezia, beh, Venezia sicuramente non ha bisogno di essere conosciuto, a Cento di Ferrara, che appunto è diventato internazionale, ma andate anche a Ivrea, perché questo discorso della fagiolata e del giorno dopo di mangiare polenta e baccalà, secondo me è davvero molto, ma molto sfiziosa e originale. Bene, il vostro gastronauta vi augura buon pranzo, buon fritto, buoni dolci a tutti per tutto il weekend, e magari non prendete indigestione, ma ricordatevi i bomboloni anche se non fanno parte del carnevale. Vi saluto e vi do appuntamento domani alle 10 per la replica di questa trasmissione, alle 12:15 circa con il wine bar del gastronauta e ogni giorno con la pillola delle 18:30. Alla prossima settimana.